Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera da Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spelore che eccezionalmente questo lunedì è al posto di Fabrizio Ruzza perché ci siamo un po' scambiati per motivi diciamo tecnici. L'appuntamento con la sua trasmissione sarà appunto giovedì dalle 21 alle 22.30. Questa sera perché Agostino? Perché c'è un live e quindi Maurizio ha voluto che fossi in regia ed eccomi qui ad accompagnare questa cavalcata musicale in compagnia di Stefano Ferro. Ciao Maurizio, ben ritrovato. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, assolutamente ti ho voluto perché senza la tua regia le cose vanno e vengono, però vanno bene. Adesso prossimamente avremo un altro regista. Quindi, sì, progressivamente, però insomma è una bella notizia. Allora, prima di cominciare di dare la parola ai nostri ospiti a questo live di questa sera, vi ricordo i nostri dati. Allora, per quanto riguarda i numeri telefonici con in studio, lo 049 875 6423, mentre gli sms, se volete mandare qualche informazione oppure chiedere qualche informazione oppure dare, che ne so, qualche parere a questi ospiti di questa sera che tra poco presenteremo, il nostro numero di sms, vi ricordo, è il 346 23 20 033. Siete sintonizzati via radio, allora le nostre frequenze sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Il nostro sito, da dove potete ascoltarci anche in streaming, cioè www.bluradioveneto.it, è semplicissimo. Nella home page c'è scritto ascoltare radio, cliccando lì si sente 24 ore su 24 in diretta. Assolutamente. E poi le nostre pagine su Facebook, è semplicemente Blu Radio Veneto, e l'altra è Blu Radio Veneto Rockaway, gestita dal nostro direttore artistico che ha organizzato anche questo live, e cioè Alberto Prisco, che salutiamo. Maurizio, ti lascio la parola. Benissimo, già il nome di Stefano Ferro Band. Quando uno dice Stefano Ferro Band, sta proprio nell'occhio del ciclone. È una band, c'è rock, ragazzi. Ho visto una Gibson qua davanti. Quando uno ha una chitarra Gibson davanti, gli si apre un mondo. Buonasera Stefano. Buonasera Agostino, buonasera Maurizio e naturalmente buonasera a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Bene, io sono molto contento perché quando si fa del rock, anche se alle 9 di sera, non vuol dire niente. Il rock non ha confini, non ha ore, si fa rock. E una chitarra elettrica, un basso, una batteria e una chitarra acustica è un buon gruppo. Quattro musicisti che praticamente cavalcheranno con noi fino verso le 23 e faranno sentire la tua musica, Stefano. Come si è formata l'idea di formare questa band? Innanzitutto presentiamo questi musicisti, Stefano. Certamente. Davanti a me, con la bella Gibson, fammi vedere la Gibson. Armato di Gibson, c'è Luigi Cerpelloni. Ok, very well. Fai un pezzettino con la Gibson, dai, fai. La presentazione della Gibson va sempre bene così. Vai Stefano, poi. Al mio fianco, alla mia sinistra, c'è il fedelissimo bassista Angelo Bonato. Vai, vai Angelo. Vai, vai. E di fronte a me, Piero Micheletti alla batteria. E la band rock si presenta così, chiaramente. E poi abbiamo il chitarrista acustico, nonché il leader della band, Stefano. Vai Stefano. Buonasera a tutti. Fai un giretto anche te. Addirittura, mi cogli impreparato. Un giretto veloce. Ma non siete impreparati, siete preparatissimi. Tutto in diretta 21.07. Cosa dici? È un'atmosfera particolare quando senti queste note. Sì, esattamente. Bene, partiamo. Cerchiamo di capire, Stefano, l'idea del progetto. Come è nata? Come si è sviluppata? Sì, il progetto e poi anche il disco in realtà non è nato da un'idea precisa, perché un progetto preciso nasce quando vi è sono... È un progetto itinerante, mi dicevi. Sì, nasce quando vi sono dei presupposti che possono sostenerlo nella sua gestazione, guidarlo e indirizzarlo. Invece il disco e tutto il resto del progetto è nato dalla necessità di percorrere una strada diversa, ovvero sia quella di fissare delle idee che avevo ed ho ancora e che ho potuto fare in alterni momenti grazie alla collaborazione di amici e musicisti che si sono lasciati coinvolgere ed hanno apportato il loro marchio di fabbrica, se così si può dire, alle canzoni, le quali ecco non percorrono necessariamente un filologico o conduttore come i trittici o i quadri cosiddetti politici che sono racchiusi in una cornice coerente o idealmente unitaria. Le canzoni sono come tanti piccoli affreschi nei quali ho adoperato dei soggetti diversi, dei protagonisti differenti, usando dei diversi colori, ma eseguiti dalle stesse mani. Sì, perché letteratura e musica, come tu hai scritto, sono le mie passioni. Nascono dalla letteratura e la musica, chiaramente. Sono cose che si attaccano fortissimamente. Non si staccano, si attaccano fortissimamente. Sì, soprattutto nella canzone d'autore vi sono moltissimi richiami letterari. E aver ascoltato tante canzoni dei miei autori di riferimento... Quali sono i tuoi autori preferiti? Più che preferiti, quali sono stati i tuoi punti di riferimento? Poi chiaramente la tua carriera, il tuo modo di musicare l'hai sviluppata, te e la tua band. Sì, ma io ho iniziato ad ascoltare De André a 12 anni. Al quale cosa poi, di De André, Stefano? Tutto quello che aveva prodotto fino a quel momento, a cominciare anche dalla Buona Novella, anche se mi ci sono accostato ad un'età naturalmente immatura e non capivo che cosa volesse dire. Che grande forza avesse un disco come la Buona Novella. Secondo me, l'ho detto tante volte e lo ripeto qua, in questa occasione, 21.09, assolutamente in diretta, è il disco più significativo di De André, il più difficile ma anche il più significativo, forse il più forte. Terza, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona. È un disco forte, Stefano, assolutamente forte. Sì, al quale poi ho affiancato nei primi anni del liceo Pierangelo Bertoli, naturalmente De Gregori, e poi è arrivato il mio concittadino e amico Massimo Bubola, che approfitto esattamente, per salutare e ringraziare. Salutiamo. Cosa ti piaceva di Pierangelo Bertoli, Stefano? Ma tutto quello che ha fatto. Sai che mi sono venuti i brividi quando l'hai detto, perché ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona ed era un grandissimo personaggio. Pierangelo Bertoli aveva una forza non comune che si rifletteva nei testi. Pensiamo a Rosso Colore, pensiamo a testi anche piuttosto difficili da digerire per il grande pubblico. E una su tutti, per esempio, il Pescatore, oppure Certi Momenti, che era stato un testo anche piuttosto criticato da certo pubblico borghese ben pensante. E De Gregori, naturalmente, l'ho già citato, Bubola, e i grandi della Guccini, naturalmente, Francesco, che non poteva mancare. Quello che non poteva mancare, capostipide su certe cose, Francesco Guccini. Ovviamente. Quindi hai sviluppato queste tematiche, cioè hai sentito questi grandi cantautori e hai cominciato a fare una propria strada, una tua strada musicale. Sì, probabilmente influenzato anche da questo modo di scrivere che in maniera forse inconscia ho metabolizzato negli anni, ho cominciato a dare corpo a quello che era il mio sogno di ragazzino, ovvero sia quello di scrivere delle canzoni. Eppure soffia in sottofondo, Agostino ha messo su uno dei pezzi più significativi di Bertoli, quello che l'ha sdoganato, se possiamo dire così, vero Agostino? Eppure certo. Soffia, mi pare, esatto. Eppure soffia. Pezzo bellissimo, con un testo altamente significativo. I primi dischi di Pierangelo sono stupendi. Anche quello in dialetto romagnolo non era male, musicalmente soprattutto. Bene, adesso facciamo una cosa molto semplice, come è la nostra abitudine. Apriamo la finestra. La finestra la possiamo aprire in una sola maniera, sentendo un pezzo della Stefano Ferro Band. Cosa hai scelto, Stefano? Un pezzo che è significativo perché mi pare che gli amici di Demo Rai l'abbiano trasmesso più di una volta. Sì. Questo è un pezzo particolare, si intitola Kabul, che ho scritto in pochi minuti qualche anno fa, subito dopo i primi bombardamenti americani su Kabul. È un testo in cui io ho cercato di mettere in bocca delle parole ad una donna afghana che si trova a convivere con alcune sofferenze. La prima di tutte è quella delle bombe che vede cadere inspiegabilmente. E la seconda, naturalmente non meno tragica, è quella di un regime teocratico al quale ubbidire, al quale dover sottostare, e la terza è quella di una gravidanza che sta portando in grembo. E ho scritto questa canzone grazie anche alla collaborazione dell'amica e cantante Gaia Vicentini, assieme al percussionista Simone Marchioretti e ovviamente all'amico e flautista Daniele Pianegonda, che hanno contribuito a fissarla nella versione del disco. E come mai Michel Pergolani e Renato Marengo hanno detto sì, a noi interessa un pezzo sì? A questo proprio non ve lo saprei dire. Vuol dire che era un pezzo valido, perché a Demo non passano, oltre anche a Blu Radio Veneto passano sempre le cose valide, però a Demo Rai passano sempre delle cose di un certo tipo, e tu sei stato citato, sei stato trasmesso da Demo Rai, una cosa molto significativa secondo me. Sì, io ho provato un grande piacere e naturalmente anche un grande imbarazzo nello stesso tempo quando Demo Rai ha deciso di mandare in onda proprio questo pezzo. È un pezzo che devo dire è stato anche confuso da alcuni nel corso del tempo, ma io tengo a ribadire che la canzone è stata scritta a caldo, cioè subito dopo i primi bombardamenti americani, certo. Senza conoscere, senza sapere naturalmente che cosa sarebbe avvenuto dopo e tutte le tragedie che ci sono state a partire anche da quella che ci ha riguardato direttamente, ovvero quella della Siria. Certo, certo. Sentiamo allora questo pezzo, Kabul, da parte Stefano Ferro Band. Questa notte che ci sveglia con le bombe, quale pirata dal cielo giungerà, grandine di fuoco sul silenzio, senza respiro. Dalla prigione dei miei occhi vedo lampi cattivi con le mani sul mio ventre, senza fiatare comincio a pregare. Se scamperai a queste luci, io ti chiamo Kabul, Kabul, Kabul. Dio mandali via, Dio mandali via, Dio mandali via, tu mandali via, mandali via, oh mandali via, mandali via. Sotto al mio cielo distrutto io canto una nenia segreta che esce dal cuore di un burka di seta. Se tu nascerai ti chiamo Kabul, figlio del cielo, figlio mio, senza respiro dalla prigione dei miei occhi vedo lampi cattivi con le mani sul mio ventre, senza fiatare comincio a pregare. Se scamperai a queste luci, thank you. Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, dobbiamo sottolineare una cosa, ringraziare Gil che è dietro ai cursori assieme ad Agostino, che collabora fortissimamente alla stesura del programma di stasera. Allora, caro Stefano, io voglio sapere l'arrangiamento. Tu hai parlato, mentre il pezzo andava, di certe scale orientali. Vai. Sì, e naturalmente ecco l'occasione gradita per ringraziare anche l'altro collaboratore, musicista e arrangiatore Massimo Montresor, che assieme al fratello Marco ha dato delle impronte indelebili a questa canzone e anche ad altre. E l'idea di arrangiare questa canzone come una ninna nanna, utilizzando delle scale coerenti con il mondo al quale si riferiva, è stata appunto un'idea che è venuta a Massimo Montresor, che non finirò mai di ringraziare, che è riuscito ad interpretare in senso tecnico quello che io ho suggerito in senso emotivo, un po' come i musicisti che collaborano in questo momento riescono a fare. Ecco, questo è molto importante. E questo è fondamentale. Tu hai detto una frase molto bella, cioè i musicisti, quando tu hai scritto un pezzo e i musicisti sono riusciti a praticamente a mettere in musica, a dare lo sfogo, a dare l'impulso alle tue idee, è una cosa fondamentale. Il gruppo è anche questo, secondo me. Sì, io ho sempre cercato di trovare dei collaboratori che avessero l'intelligenza, la sensibilità e la capacità di tradurre in senso tecnico, grazie appunto alla loro capacità strumentale, quello che io suggerivo e suggerisco in senso prettamente emotivo e quindi non canonico. Certo, certo. E a me è piaciuto molto, ripeto, l'arrangiamento di questo pezzo, bello, significativo, doveva essere una ninna nanna, ma queste introduzioni, questi inserimenti arabi hanno danno proprio là perfetto al pezzo. Doveva essere così, doveva essere trattato in questa maniera. Sì, ma questa sera ve ne faremo sentire altri, grazie naturalmente a Luigi Ciappelloni e alla sua Gibson. Che bella la Gibson, fammi sentire un'altra volta la Gibson per piacere. Il blues fa sempre bene alla salute, quindi l'introduzione del blues fa sempre bene alla salute. Stefano, con cosa si parti live adesso? Ma stasera partiamo con la canzone che tradizionalmente apre da sempre i miei live, e è quella che dà il titolo al disco, Sogni Profani. Ok. E Sogni Profani è un titolo particolare. A me piaceva l'idea di accostare appunto l'aggettivo profano, che sta ad indicare tutto quello che non attiene alla sfera del sacro, e quindi a nulla di imposto e di acquisito, ai sogni. E i sogni per loro natura sono l'espressione della parte più inconscia di tutti noi, che alla fine è la parte più vera e che probabilmente comanda a nostra insaputa. Certo, e poi sono assolutamente liberi i sogni, quindi. Tutti i miei ricordi e al mercato dei vichinghi ho barattato i miei sogni e alle feste dei pirati ho giocato coi poeti a chi bestemmia di più e ho comperato il vino amaro dai giorni consumati. È quando il cielo si accorgerà, io me ne andrò senza pagare il fio alla pietà. Mie parole dietro a un cancello dove sta scritto lasciate ogni speranza sbarcherò con il sorriso di un vagabondo e canterò a godi fanciullo mio, inizia l'estate, e canterò a godi fanciullo mio. È quando il cielo trionferà, io me ne andrò rubando il vino all'al di qua. Ho lasciato mezzo cuore alla stazione di Venezia, sono tornato a cercare sulla strada l'altra metà, ho richiuso una finestra da due soldi dietro al sole, mi ho cancellato dalle stelle la parola verità. È quando il cielo trionferà, sarà già tardi, l'ho ammazzata io la finta pietà, sarà già tardi, l'ho uccisa io la credulità, sarà già tardi e buona permanenza, signorina mediocrità. Ci mancava yeah alla fine, che ci stava benissimo, assolutamente. Vorrei sottolineare il bassista, che era esattamente fermo, non si muoveva, però dava un impulso non da poco. Fermo, statico. Vabbè, che visivamente sei abbastanza ben messo, ma eri fermo, completamente fermo, non ti muovevi, eppure davi un impulso non da poco al pezzo. Poi ho visto il batterista, era molto divertente, si divertiva in mondo quando suonava. Lui suona la Gibson, il chitarrista Gibson, c'è niente da dire, dovevo sempre alzare i piedi quando aveva la Gibson. E poi c'era Stefano che aveva proprio, era proprio pieno nel patto, era proprio dentro il pezzo, si vedeva, si sentiva. Per il momento ne sono uscito. Adesso è uscito. Anche perché sono ancora, non tantissimi, ma altri quelli che dobbiamo proporre. Quindi. Sì, ma se hai iniziato, no, mettiti qua Stefano, usa questo qua per il piacere, grazie. Più che altro perché così non c'è un po' di reverbero. Bello della diretta. Perché se no sei reverberato, come si dice anche te. In ogni caso, sì, è solo un inizio, ma è un bel inizio. Un inizio che fa. Si suda qua dentro, si suda nel senso positivo del termine. È bello così, cosa dici? Ma se questo lo dite voi, a me fa molto piacere. Benissimo. Leggendo fra le note, tu hai detto, hai fatto una dichiarazione significativa. Hai parlato dell'artista, quando un artista non è veramente un artista, ma è uno che dà l'amore, dà il pathos per essere un artista, anche se non lo è effettivamente. Va avanti, è un artista sì, però non è un artista ufficiale, non è un artista con la A maiuscola, è un artista con tanta voglia di fare, non è un professionista, questo voglio dire. Ma la frase incriminata forse era quella che si riferiva alla biografia. Sì, esattamente, alla biografia. Quando io in un momento di protesta cinica, se così vogliamo. Ma non è una dire, protesta, è una tua presa di posizione. Non è una protesta cinica, è una tua presa di posizione. Avevo detto che è scritto che dietro ad ogni biografia molto spesso si cela quello che non siamo. E questa è stata un po' una mia presa di posizione nei confronti di tutto quello che ancora non va nel mondo, del mondo della musica. E dove li butti gli strali in questo momento? Ma contro a certo business, a certe cose da proporre volutamente. Non vorrei generalizzare, anche perché si fa l'amore per la polemica del tutto italiana, ecco, si fa, che prende molto gli animi di tutti a seconda un po' degli argomenti che appassionano di più. è una preda facile, diciamo. Ecco, io avevo detto così perché vedevo molti molti artisti che magari eseguivano queste canzoni per diletto, mettendoci veramente molto cuore e molta professionalità. E ecco, analizzando un po' la distanza che passava tra il mondo veramente professionistico e quello, per così dire, che ancora non lo è, ma è come se lo fosse. Questa è una frase molto interessante, sì. Come se lo fosse. Tantissimi musicisti riescono ad esprimersi a grandissimo livello. Il fatto che loro non siano ancora oggi dei professionisti è per il semplice fatto che ancora non sono stati fagocitati dal mondo del professionismo. Non hanno trovato il produttore giusto? Il veicolo giusto? Però attenzione, che quando c'hai il produttore e il veicolo giusto non sei più libero di fare come vuoi. Certamente, ma io sarei felice che qualcuno prendesse in mano il progetto, desse dei consigli, degli indirizzi e mettesse me e i miei collaboratori musicisti nelle condizioni di lavorare, di esprimerci e di fare di più e meglio. Desse dei consigli, però attenzione, cioè una mano, però una mano che non può chiaramente levare la tua qualità, la tua produttività musicale. Naturalmente gli addetti ai lavori riescono a vedere molto dentro ai prodotti. Certo, sono d'accordo. Ecco, l'artista difficilmente è un esperto di marketing. Gli esperti di marketing fanno il loro mestiere. E, ecco, avevo detto così, appunto leggendo tante biografie di tanti gruppi che somigliano alle biografie dei gruppi più blasonati, diciamo. E mentre notavo anche la distanza, alle volte triste, che passava tra un gruppo di bravissimi musicisti, ma magari costretti dalla vita a lavorare, certo, a fare altro, e invece alcuni gruppi di blasonati che magari messi lì o spinti dall'industria e che potevano benissimo misurarsi tranquillamente con gli altri. Quindi nella musica il professionismo alle volte non è solo questione di capacità tecnica, che senz'altro ci vuole, ma è anche l'incontro con le occasioni, con i percorsi, con le possibilità. Ecco, faccio un breve esempio. Anni fa un cantautore che scriveva delle canzoni poteva presentarsi davanti a una casa discografica, poteva fare la sua mezz'ora di anticamera e si scomodavano i produttori artistici per sentire che cosa aveva da proporre l'artista, magari armato di una chitarra, magari addirittura non accordatissima. E oggi non si scomoda. Ma non c'è più Micocci in giro, caro Stefano. Lo so, ma a me piacerebbe. Devi tenere conto di questo. Lo so, Micocci era unico, la hit era unica. Micocci dava in cerca di un talent scout che cercava volutamente gli artisti emergenti. Ma le cose sono cambiate, purtroppo. Sono cambiate, sì, purtroppo. Sì. Sono cambiate e noi ne prendiamo atto, ma credo che le canzoni si possano fare ancora con grande amore e con grande rispetto e grande professionalità, anche se ancora il destino, la vita, il caso non ci ha procurato un contatto che possa mettere finalmente in grado, dopo 12 anni di onorato servizio e di gavetta, di fare le cose veramente con grande serietà. Approfitto, se c'è qualcuno in ascolto, io ne ho invitati molti, Stefano Ferro e la sua band sono pronti. Questo è detto una cosa giustissima, bellissima, però succede questo: quando tu ti avvicini a un certo tipo di produzione o un coinvolgimento, spesso capita che certi schemi vengono ridotti, hai capito? C'è la possibilità che la tua produttività, la tua voglia di fare sia ridotta a certi fini, purtroppo capita anche questo. Sì, e in passato mi sono già scontrato con queste miopi logiche, diciamo, io preferirei veramente dover pagare piuttosto prezzi economici piuttosto che prezzi artistici. Benissimo, chiaro, questa è una cosa chiarissima. Chi ha capito, chi è al microfono, che può dare una mano, può dare un segnale, ecco, possiamo dire. Lo spero, ce l'auguriamo. Ecco, può dare un segnale. La band è notevolmente ben messa, io ci sto vedendo in questo momento, live assolutamente, suonano come si devono suonare, non hanno nessun problema e suonano alla grande, quindi meglio di così, una garanzia assoluta. A proposito di garanzie assolute, sono le 21.33, facciamo un altro pezzo live, dai, forza ragazzi. Sì, il prossimo pezzo live si intitola Aquile e favole. Aquile e favole, ok. Due parole legate a un palo, ed i tuoi sogni legati a un filo, ti puoi vedere come un gabbiano, che come un'aquila vuol volare, e con il vento di fine estate, e con le rondini già partite, nella bufera dei forse ma, nella tempesta dei tuoi chissà. Noi siamo tutti come galline, sguardi a terra contro il becchime, ma se a qualcuna spuntano le ali, impara presto come volare. E le altre che sono rimaste a terra si metteranno a giocare a guerra, impareranno a tirare sassi, sempre più forte mentre tu passi. E allora volano, volano le aquile e le favole, vanno ma ritornano gli aerei e le rondini, e cercano la strada giusta gli uomini, con le lacrime cucite bene dentro il cuore, perché fatte di sudore e non sanno mai il sale, fanno bene perché fanno male. Senza un filo da ricucire, con 100 volti da ricordare, con le tue carte da giocare ancora, finché non piove, finché fa sole. E salutare non serve a niente, è un'abitudine come tante. Vi lascio un fiore di note e frasi, ma che non muore come le rose. E allora volano, volano le aquile e le favole, vanno ma ritornano gli aerei e le rondini, e cercano la strada giusta gli uomini, con le lacrime cucite bene dentro il cuore, perché fatte di sudore, ma non sanno mai il sale, fanno bene perché fanno male. We'll be right back. allora volano, volano le aquile e le favole, vanno sì, ma poi ritornano gli aerei e le rondini e cercano la strada giusta di tutti gli uomini, con le lacrime cucite bene dentro il cuore, perché sono fatte di sudore, ma non sanno mai il sale, fanno bene e fanno male. Mi è piaciuto un sacco quelle risposte, che la risposta fra te, il basso e la batteria. Adesso me la rifai un'altra volta, era bellissima. Le risposte, la parte finale del pezzo, queste stop and go continue che voi avete eseguito. Vai, vai, vai, vai a batteria, siediti pure, dai. Fai un sacco di mi sono piaciuti un sacco, me lo rifai adesso questi stop and go finali. Queste risposte, esatto, che Davide. E questo era il centro del pezzo, secondo me. Il pezzo era strutturato, tu cantavi, quasi declamavi, Stefano, il pezzo, e loro ti rispondevano attraverso degli assoli. Poi il bassista continuava a infierire sul mio stomaco continuamente con quella nota che continuamente mi infieriva, cioè mi entrava dentro. Bellissimo. A me è piaciuto molto questo pezzo. Molto, una ballada molto contrastata, molto, con molto pathos. Cosa dici, Stefano? Ma mi fanno naturalmente piacere e mi imbarazzano anche tutti questi. Poi, l'ho sentito io, essendo nella fossa di leoni, quando uno, dimmi, ok, no, quando uno sta nella fossa di leoni ha un'altra sensazione, sensazione quasi, quasi che suonasse anche lui. Sì, Aquile Favole, ecco, devo dire, è un pezzo il cui centro, secondo me, è quel paragone tra il gli uomini e le galline. E le galline, sì, le galline, quella frase stanno, molto significativa che hai detto all'inizio. Che stanno così con il piegate, no? Guardando, guardando per terra e beccando il becchime, ma è quando a qualcuna di loro spuntano le ali, le altre, invece che dire a lei insegna anche a noi a volare, trovano forse più facile raccattare dei sassi, tirare dei sassi alla gallina che è diventata aquila. E questa è un po' la metafora dell'invidia, della ripicca e della gelosia che accompagna un po' il nostro mondo. Il nostro mondo in molte cose, soprattutto quando uno quando una persona riesce a conquistare una sua posizione, magari con il merito, ecco, prima dei complimenti, prima degli apprezzamenti arrivano le invidie, le gelosie. E la classica frase chissà come ha fatto, è vero ed è un non so se sia un vizio tipicamente italiano oppure sia diffuso dalle altre parti. E questo modo di sparare nella parte finale il pezzo era anche questo, indicava questo testo, questo modo di sparare, questo modo di dare molta potenza, molto vigore. E questi stop and go continui, a me, ripeto, sono piaciuti moltissimo perché davano proprio la sensazione di questo. Mi fa molto piacere, naturalmente, e provo sempre molto imbarazzo quando qualcuno fa un complimento a una canzone, ecco, dicendo cose. Io l'ho magari sentita così, Stefano. Sono proprio al centro, ragazzi. Essendo uno al centro, ha una sensazione diversa, molto più profonda, molto più musicale, secondo me. Questo è il gran privilegio della canzone, che per essere naturalmente spiegata ha sempre bisogno della mediazione dell'autore, ma se una persona non è magari interessata alla mediazione per carpirne il significato fino in fondo, può benissimo e tranquillamente dare un proprio senso alla canzone. Non è poi sempre necessariamente così doveroso andare in cerca dell'autore per sapere o per capire come mai ha scritto questa frase. Questa canzone nasce poi da un momento mio molto intimo, è stato un po' un tentativo di voler fare un regalo originale a una persona che partiva per gli Stati Uniti in cerca di un futuro, di fortuna. Non sapevo che cosa fare, mi sembrava banale acquistare un regalo, ho regalato questa canzone. Tu hai parlato, dimmi. Nel tempo ha assunto naturalmente un altro senso, un altro significato. Quando la penso, non penso quasi più a quel momento, anche se è stato poi la molla che ha fatto, che me l'ha fatta scrivere, che me l'ha dettata, ma serve anche per altri momenti, per me e anche spero per chi la ascolta. È l'uso dell'armonica, adesso hai usato l'armonica in questo pezzo, al di là del primo momento molto americano, l'armonica è significativa di un certo percorso, di un viaggio praticamente. Sì, l'armonica è uno strumento folk popolare molto usata dai cantautori. Dilaniano, possiamo dire. Tu parli di De Gregori, De Gregori è il primo dilaniano italiano al 100%. Assolutamente, sì. L'armonica è uno strumento immancabile in Dylan, in De Gregori, in Bubola, in tanti altri cantautori, folk, rock. Riesce a connotare la canzone di un senso, direi, popolare ma anche malinconico. Sì, esattamente, molto malinconico, esattamente. Hai detto una cosa giusta. La malinconia nella musica qualche volta serve, qualche volta porta a determinate considerazioni, secondo me. 21:45, che considerazioni facciamo? Volete riposarmi un secondo o suoniamo ancora? No, suoniamo un altro pezzo dal vivo, sì, esattamente. Un altro pezzo. Ah, una cosa volevo chiederti, Stefano. Questo pezzo che abbiamo sentito, come lo dal vivo, come lo fai? Lo fai con più energia? Qui siamo un set pseudo-acustico, non prettamente acustico, pseudo-acustico. Con quanta energia ci metti, soprattutto in questi... Il batterista, ho visto che era molto molto soddisfatto quando si fermava e faceva ripartire, faceva impazzire gli altri. Ma sai, alle volte l'energia dipende anche dall'apparato tecnico che in quel dato momento riesce a sostenerci. E naturalmente per suonare live non sempre si va con gli stessi musicisti, certo, non sempre certo. con lo stesso set. Qui questa sera, anche per esigenze naturalmente di spazio, siamo con abbastanza una stretti, batteria ecco, ridotta. Essenziale, ma non per questo meno efficace. E abbiamo però un fiorfiore di amplificatori, quello non sono essenziali, sono bei robusti. È un fiorfiore di musicisti, direi. Chiaramente, sostengono un fiorfiore di bassista, quindi non da poco. E di chitarrista. E di chitarrista, esattamente. Dimmi. Un fiorone, giusto. Ma è giusto, di solito, posso dirti, Angelo, The Band, quando ne sono passate tante, è sempre il bassista era ben messo fisicamente. C'è poco da fare, deve sostenere tutto il ritmo della band, tutto lì, il fuoco musicale della band, e il bassista non c'è niente da fare, è ben messo, è un signor bassista, cioè anche dal punto di vista fisico. Puoi dire qualcosa, Angelo, se vuoi? Non vuoi dire niente, assolutamente. Lascio la parola a Ferro, che è abilissimo. Ferro è bellissimo, ma la band siete tutti quanti, oltre a Stefano, siete tutti anche gli altri, anche voi chiaramente. Il gruppo è quello essenziale, Stefano. Sì, sì, anche perché a me piace moltissimo suonare assieme agli altri, sia per la compagnia, sia anche naturalmente per le canzoni che riescono a prendere un gusto anche più bello ed orecchiabile, soprattutto nei confronti dell'ascolto da parte del pubblico, anche per un senso di rispetto nei confronti del pubblico. Credo che alcune canzoni suonate così da sole con la chitarra avrebbero un tutt'altro senso, cioè private del suo arrangiamento, con le quali molto spesso nascano, come la prossima che eseguiremo, Tre Ladri, non avrebbero molto significato. A me piace molto naturalmente specchiarmi nella mia scarsa tecnica di chitarrista ed eseguo molto volentieri alcuni pezzi da solo con la chitarra, ma la restante parte dei brani mi piace molto condividerla con persone che mettono entusiasmo, cuore, tecnica e voglia. Io ti faccio questa domanda, allora: tu sei De Gregoriano, ami molto De Gregori. De Gregori spesso e volentieri, quando è con la band, distrugge il pezzo, o meglio, li amplifica, li trasforma, li fa come Dila, che qua, spesso e volentieri chi sente Dila non si ricorda neppure che nota iniziale era quel pezzo famoso di Dila. Come mai De Gregori ha questa capacità di totalmente sconvolgere un pezzo simile, che può essere anche positivo, ma può essere anche negativo? Ma può essere negativo magari per l'orecchio del pubblico che ricorda quella versione, ecco, che gli piace di più rispetto a quella magari proposta successivamente, ma è il grande privilegio di una canzone. La canzone si può cambiare il ritmo, si possono cambiare gli accordi, addirittura può essere cambiata qualche parola senza stravolgerne il senso. Non è come un quadro, non si può più ritornare su quel quadro, se ne può fare un altro che gli somiglia, ma non è lo stesso quadro, però. E riuscire, ecco, attraverso anche la di diversi musicisti, anche di nuove sonorità e nuovi strumenti, a ritornare su una canzone, credo sia il frutto anche di una maturazione, perché le prime canzoni che sono partite con me poi nel tempo poi si sono sviluppate, hanno cambiato sonorità, addirittura hanno cambiato tonalità. La tonalità è un colore importante, fondamentale, certamente. E, che tonalità dai al pezzo che adesso sentiamo, allora? Ma in senso tecnico la prossima è una tonalità minore. Perfetto. Per i più scafati, ecco, è un La minore. Ecco, perfetto. La prossima canzone si intitola Tre ladri, ed è una storia di tre mascalzoni. Chiamava Toby, come i cani delle signore, e veniva dalla valle dell'Adige, aveva gli occhi di nessun colore, e per gioco o per passione agli uomini rubava l'amore, e per gioco o per dolore agli uomini rubava il sole. E uno si chiamava Frankie, ma gli amici gli dicevano il prete, perché rubava quando aveva fame, restituiva quando aveva sete. Con un coltello, sempre in una scarpa, e gli altri sempre due come te, con quattro tagli al posto della barba, e con in tasca sempre due monete. Il terzo forse aveva un nome, ma tutti quanti lo chiamavano il Trancia. Entrava piano nelle sacrestie, rubava gli ovoli, lasciava la mancia. Rubava piano per non far rumore, rubava piano per non disturbare, e si fermava a chiacchierare con un signore intento a mendicare. Ma fu una notte senza senso e fortuna che li trovarono addormentati, e li rinchiusero nella prigione di quella notte di mezzaluna. Ma si rubarono le sbarre e le chiavi, e allo scoperto uscirono in cortile, ma gli spararono da 3 metri, e come angeli uscirono dal cielo. disgraziati sdraiati alla stazione che dividevano la stessa panca, pelle coperte di vento di cartone, che si svegliavano con un sorriso. Qualcuno disse: mi sembrano loro. No, non è possibile, gli hanno sparato, ma in tasca avevano monete d'oro, ma d'oro. Siamo on the border, non siamo ai confini, però siamo a Padova, ma come se fossero al confine. Pezzo strepitoso, proprio un Tex-Mex, secondo me, proprio al confine, on the border, al 100%, Stefano. Veramente molto, molto bello, molto trascinante. Poi possiamo sottolineare che il maestro alla Gibson ha fatto un lavoro straordinario, proprio un lavoro straordinario, proprio si è incastonato dentro il pezzo. A me è piaciuto molto, Stefano, cosa devo dire? Grazie. Mi ha proprio sollevato di peso il senso positivo del termine. Ancora rinnovo il mio imbarazzo e anche la mia contentezza che condivido con i musicisti. E quindi una band simile, giustamente tu dicevi, ma perché un qualche segnale non arriva? Deve arrivare. Ma io non lo so se deve o se non deve, l'importante è riuscire a farsi trovare sempre pronti, sempre pronti nel momento. Nel momento del bisogno, come si dice, del bisogno, musicale, della necessità, della fortuna, non certo. Si sa, insomma. Machiavelli diceva che la fortuna è arbitra soltanto per metà delle cose umane. Noi intanto pensiamo a metterci l'altra metà, ovvero l'impegno, la serietà e la professionalità. Qui l'impegno e la serietà è assolutamente palese. Io l'ho sentito alla grande, abbiamo sentito tutti qui in studio, siamo stati tutti entusiasti, sono stati presi, sono stato preso dalla solo anch'io, non riuscivo a stare fermo, dalla solo che ha fatto il nostro maestro alla Gibson. Possiamo dire una cosa, musica rock, ma tante ballate, Stefano, tu hai detto che hai un certo punto di riferimento De Gregori, ma perché De Gregori? Qualche altro artista che è un tuo punto di riferimento focale? De Gregori ti ha insegnato a fare certe cose, ti ha ispirato a fare certe cose, ma solo De Gregori. Abbiamo parlato prima di Bubola, abbiamo parlato di De André, ma nel panorama italiano non c'è solo Bubola, De André, De Gregori, ci sono anche i cantautori cosiddetti minori che valgono lo stesso. Ma indubbiamente, certamente, ho mancato forse di prima di citare Giorgio Gaber, ecco, naturalmente, che forse, che non che fosse un minore, anzi no, forse assolutamente non è un minore, è uno che ha dato determinate vie da percorrere, da Torpedo Blu al Teatro Canzone, beh, i passi sono stati i passi da gigante. Diciamo che i cantautori sono dei punti di riferimento, i quali a loro volta avranno senz'altro avuto dei loro punti di riferimento nel panorama Dylan su tutti, secondo musicale. Te. Dylan probabilmente su tutti, sicuramente, anche se la scrittrice Fernanda Pivano, parlando di De André, nel consegnargli un premio, aveva detto: è ora che la smettano di dire che De André è il Bob Dylan italiano, ma che dicano che Dylan è il Fabrizio americano. Aveva detto così per paragonare simpaticamente, certo, i due. Certo, certo. Anche se De André, la sua ispirazione l'ha trovata dai chansonnier francesi, Brassens, eccetera. Sì, sicuramente la sua è stata una strada differente rispetto al al cantautorato di matrice folk, sicuramente ha preso lo spunto dai francesi Brassens su tutti, insomma. Esatto, tu non sei legato forse a questo tipo di cantautorato, ma io amo fortissimamente Tim Buckley. Tim Buckley era un cantautorato, possiamo definirlo un cantautorato quello di Tim Buckley? Non penso, era una musica a sé stante, una sua direzione, anche se il primo disco era abbastanza decisamente cantautorale, ma poi no, poi è andato via per altri lidi, per altri orizzonti, per altre praterie. Beh, del cielo probabilmente, assolutamente del cielo. Confesso che mi cogli un po' impreparato, tuttavia la predilezione che aveva di André per i francesi è anche un po' la mia, complice il fatto di aver studiato sempre, un po' per sfortuna e poi per condizione, la lingua francese. Io ricordo bene come fosse ieri quando mi sono presentato al primo giorno della scuola media, quando il preside disse: solo tre di voi non sono stati accontentati nella richiesta delle lingue. Io, come tutti gli altri ragazzi, avevo chiesto l'inglese, fui dirottato invece in una classe di francese. Aia. E proseguì così al liceo e poi all'università. E questo contatto con la lingua francese mi ha anche aperto la strada ai cantautori, Brassens su tutti. È uscito peraltro un libro recentissimo della dottoressa Margherita Zorzi, che saluto e ringrazio, proprio su Brassens, uno dei libri più belli che ho letto fino ad ora, insomma, nell'ultimo periodo. È giusto rivalutare Brassens. In Italia è poco conosciuto, è conosciuto solo grazie a De André, attraverso De André, data la spinta di De André, però è conosciuto da poco, pochissimo Brassens. Brassens aveva un grande dono, quello di far danzare le parole assieme alla musica, e proprio ispirandomi al suo modo di fare ho composto la canzone che andremo ad eseguire tra un attimo, che è molto serrata, si intitola Il Confessando, ed è una canzone dove ho cercato di mettere in luce un po' le contraddizioni. È una grande metafora, diciamo. Perfetto, adesso la sentiamo allora. Peccatore, buonasera confessore, sia lode a Cristo. Dimmi ragazzo, quali sono i tuoi peccati, quanti ancora ne hai combinati, ma in chiesa t'ho già visto. Sa caro padre quanto è dura questa vita, prima che sia terminata io le devo confessar che ho fornicato, macchinato, buggerato, adulterato, e le tasse non ho pagato, ho licenziato, ho sfruttato, e il bilancio l'ho truccato e sono scappato con la cassa del cachet. Caro figliolo, mia smarrita a pecorella, tu me la racconti bella, io che cosa ti devo dire? Tu devi cercare di non fare queste cose, sai che sono peccaminose, io ti posso suggerire. Tu devi pregare, digiunare, non lasciarti mai tentare, a cercare la tua spiritualità. Tu devi astenerti dalla Santa Eucaristia e 10 glorie e Ave Maria per penitenza. Devi dire: io ti confesso, io ti assolvo e ti risolvo, ti perdono e ti condono ogni peccato, quello presente è passato e mi raccomando, un'offertina per il tetto della chiesa che ripara ad ogni offesa al tuo Signore. E rinsavito, ho riflettuto, sì, io posso andare senza macchie né paura, e comincia l'avventura di creativo finanziere, e con il prossimo trucchetto ti cancello quello vecchio, anima mia, pace e bene così sia, e con il prossimo trucchetto ti cancello quello vecchio, anima mia, pace e bene così sia, e con il prossimo trucchetto io ti cancello quello vecchio, anima mia, pace e bene così sia. Brano molto complesso, con un sacco di cambi di ritmo, fermate, ripartenze. Tu l'hai declamato in alcuni momenti, sembra come se fossi a teatro, e giustamente, come hai detto, è un brano molto racchiuso, molto potente, con un testo decisamente importante. Brassens ti ha ispirato decisamente. Come lei, tu hai parlato di Brassens, ma dove è nato, in che momento della parabola artistica tua è nato questo pezzo? Ma è nato in un momento curioso in cui mi ero accostato alla trascrizione, certo in maniera non canonica, come un musicista fatto e finito, ma il mio maestro Franco Bignotto, dotato di grande sensibilità, è riuscito a farmi ad arrivare un po' al nocciolo della questione, e ricordo che durante le lezioni mi proponeva alcuni esercizi e mi aveva dato alcune battute di una tarantella trascrivendomele sul pentagramma e dicendomi: queste sono quattro battute e adesso vai avanti tu. Vai avanti tu. Queste quattro battute erano proprio l'incipit del Confessando, e questo ritmo mi ha proprio così suggerito una canzone. Io ho preso due personaggi, loschi, un penitente e naturalmente impenitente, perché si pente ma non si pente in realtà, e un, diciamo, un sacerdote disposto a perdonare qualsiasi cosa senza insegnare, diciamo, il senso della responsabilità. Quindi ho preso due personaggi, li ho portati all'eccesso, grazie allo stratagemma dell'accumulazio, che poi è quella figura, diciamo, retorica, grazie al quale si riesce a produrre un qualche cosa di ironico. Il brano è volutamente ironico, e queste due figure sono un po' la metafora di tanti, diciamo, personaggi loschi. C'è l'impenitente che si pente ma non si pente, le combine tutti i colori. C'è chi invece di insegnare il senso della responsabilità si limita ad assolvere, e sono due macchiette un po' tristi, un po' grottesche, ecco. E questa è stata un po' la genesi della mia canzone. Musicalmente hai parlato di tarantella, non so se ci fosse propriamente una tarantella, c'era qualche movenza simile alla tarantella, anche se poi mi pare che è entrato un po' un tocco di blues, quello che non manca mai. Sì, ma perché la canzone in origine è nata come tarantella. Faccio sentire un momento. Vai, vai. Era nata così. nel nome del padre, del figliolo, peccatore. Buonasera, confessore. Era andato così, ecco, questo era un po' il ritmo iniziale. E poi, naturalmente, è entrata la band, è entrato il rock e la canzone ha preso una via diversa, un'altra piega, un'altra così, piega. Una piega inaspettata. Angelo ha detto che era un po' troppo bocca di rosa di André Docet. Vabbè, è un riferimento, possiamo dire, un riferimento, un piccolo riferimento, perché De André, non perché non si può attaccare in senso positivo, ideale a De André. De André è un genio, ha sempre fatto delle cose meravigliose. E, ritornando a Brassens, quindi sei stato ispirato, tra virgolette, da Brassens. Ispirazione è naturalmente una parola per me un po' eccessiva. Io no, ispirato. Parlare di influenza. Ecco, influenzato, sei stato influenzato. Ispirazione non è quel, diciamo, momento magico di trance durante il quale... E Brel, no? Non lo citi? Febbrilmente, anche Brel, Jacques Brel, naturalmente, sì. La chanson de Vieux Amant. Esattamente. Ne me quitte pas. Ecco, ancora meglio, la gente conosce Ne me quitte pas. Tanti conoscono Ne me quitte pas. Ma non ha fatto solo questo, ha fatto tante altre cose. Giustamente, ma belle. Quindi, questo ramo, Manzoni dice il ramo del lago di Como, possiamo dire il ramo francese della tua personalità musicale, Stefano. Sì, anche se poi è stata, devo dire, piacevolmente inquinata, se così da loro, dire, da loro, dal rock. Ma il rock è anche francese. Johnny Holiday, vi ricordate Johnny Holiday? Faceva del rock and roll, facciamo dire. Anche se in libertà, non proprio rock and roll, faceva le canzoncine pop. Ma zoom, zoom, zoom. Però anche quello aveva una certa valenza. Mi sta benissimo così. Una certa valenza. L'arrangiamento, ecco, è una parte fondamentale nella costruzione di una canzone. Chissà perché molte canzoni funzionano proprio perché sono state arrangiate in quel modo. Certo. Ed è un po' il grande mistero della canzone, cioè il vestito che si riesce a cucire addosso. È vero che è importante la parte che svolge l'autore, che scrive il testo e magari scrive la musica, ma non è da meno, ed è, direi, una parte complementare assolutamente necessaria, la parte di chi è il lavoro di chi naturalmente con la sensibilità e con la tecnica riesce a cucire il vestito adatto. Ecco, allora ritorniamo al discorso che hai detto, che hai fatto in precedenza, del discorso dell'artista non artista. Ci sono i non artisti, cioè gli artisti non professionisti, che qualche volta danno un tocco alla canzone decisamente migliori degli artisti professionisti. Sì, non essere un professionista non vuol dire non riuscire a fare delle cose in maniera assolutamente professionale. Esatto. Significa questo, arriviamo semplicemente a non essere stati ancora fagocitati dal mondo del professionismo. Ci sono fior di chitarristi che non sfigurerebbero sul palco con qualunque altro. Ecco un altro, ecco il presente. Ma fortunatamente Luigi questa sera è qua con me, ma ecco, ricordo che Luigi suona anche su palchi importanti, e magari un domani chissà trio di picche, il tuo navigato trio di picche si parla molti. No, lasciamolo perdere. Era un episodio. Se vuoi avvicinarti al microfono, ho fatto apposta così parli anche un momentino. No, beh, ma l'avventura del trio di picche è tra... No, è una cosa di molto tempo fa. Sicuramente è molto importante. Ma lui diceva il discorso della tua abilità, lampanti, io la vedo stasera, sono qua davanti, quindi sono abilità un po' di tutti, dai, alla fine. L'abilità un po' di tutti, basta sì. Basta fare le cose, no, come ha detto Stefano, abilmente, e un brano può... Mettiti davanti, sì, così. Così? Ecco, perfetto. Tra un po' mangio il microfono. No, lo devi mangiare. Guarda pure Maurizio. Lo devi mangiare il microfono, è fatto apposta. Il trucco a volte di alcune canzoni è proprio farle girare nel modo giusto. È un po' il fascino che c'è nel rapporto tra chi ha l'idea e chi poi la fa, ecco, uscire. Stefano ha l'idea, come il sarto e lo stilista, no? Lo stilista ha l'idea, poi il sarto sa come far venire fuori l'idea, non è... e quindi uno ha bisogno dell'altro. Io mi reputo sicuramente uno, non mi reputo un arrangiatore assolutamente, però mi diverto di più a lavorare sui brani degli altri che non a avventurarmi alla ricerca di ispirazioni che magari non mi vengono, però le idee degli altri mi piacciono e molto spesso mi sono degli spunti per trovare, per farle funzionare meglio. Ecco Stefano, tu cominci, dai l'idea, poi Angelo la sviluppa, il batterista la sviluppa e il chitarrista la sviluppa. Ma le file del discorso le tiri sempre te o le dirà lui? Angelo mi dice no, è stato lui. Allora arrangi i pezzi, dici no. Cosa dici? La cosa bella quando si scrive una canzone e si prova ad arrangiarla assieme è che nessuno comanda qualcuno e nessuno è comandato da, ecco, hai detto una cosa giusta, nessuno è comandato, quindi c'è libertà democratica totale qua dentro. Sì, si prova a suonare, naturalmente si cercano di salvare quelle che sono le idee più belle, le idee musicalmente migliori o forse semplicemente anche più orecchiabili che vengono alle dita talvolta, e si cerca di svilupparla assieme e di farla diventare un qualche cosa di possibilmente gradevole. Io non sono molto d'accordo di chi reputa, diciamo, la canzone orecchiabile come fenomeno di bassa lega, anche se, perché per quelle strane vie che alle volte prendono, diciamo, i significati delle parole, è accaduto che in musica dire orecchiabile abbia assunto quasi un significato di spregiativo. Sì, leggermente dispregiativo. E in realtà invece produrre delle cose gradevoli e non è che sia poi così facile. Anche se il margine, l'equilibrio è molto instabile fra la questione di orecchiabile, è abbastanza strano l'equilibrio. Sì, alle volte si tende a liquidare una canzone dicendo ah sì, orecchiabile. Molte canzoni hanno funzionato, non parlo delle mie naturalmente, parlo delle grandi canzoni dei cantautori italiani, proprio perché possedevano questa caratteristica, perché erano riconoscibili, perché erano formate da un'armonia non molto complessa e da una successione di accordi piuttosto riconoscibile e anche ripetibile. Alcune canzoni invece non hanno questa caratteristica e magari faticano a funzionare un po' al primo ascolto. Giorgio Gaber, quando faceva il teatro canzone, lui scriveva canzoni che dovevano funzionare al primo ascolto, non c'era la seconda possibilità. Gaber funzionava subito. Questo è vero, anche se lui ha cominciato scrivendo anche Torpedo Blu, vi ricordate, tanti anni prima. Shampoo, un pezzo strepitoso, bellissimo, ma funzionava immediatamente. Lo stesso De Gregori, Alice non lo sa, che poi ha cominciato ad odiare, non vuole più eseguire dal vivo. Alice non lo sa, era un pezzo molto semplice, molto orecchiabile, è arrivato ultimo al disco per l'estate dell'epoca, però era un pezzo molto orecchiabile. Evidentemente gli ha reso giustizia negli anni. Esattamente. Lo stesso Vasco con Vita spericolata, che era un pezzo un po' strano, ma è arrivato ultimo anche quello, quindi siamo sempre là, il discorso è quello. Facciamo un break nel senso, in questo senso, facciamo riposare un secondo i nostri artisti, Agostino, e facciamo la domanda solita che tu ami fare di solito. Ma la facciamo dopo la canzone. La facciamo dopo, scendiamo un pezzo dal disco allora. Hanno scelto Rime dal fronte, giusto? Sì, ecco, Rime dal fronte è una canzone in cui io ho preso un testo di un combattente, di un anonimo combattente durante la Prima Guerra Mondiale. Certo. E l'ho mantenuto inalterato anche negli errori grammaticali e l'ho musicato. Quindi il testo è di un anonimo combattente che aveva scritto questa lunga poesia, perché nel senso della rima io ne ho preso una parte e l'ho messa in musica. Da qualche parte è piaciuta molto. Bene, la sentiamo adesso. Trascorsi 9 mesi in questi terri di lacrime e pianti, a tutti quanti vi farò valese di quante gioventù rimane sfrante. La morte, ognun di noi ci ha tesi, dove i bene crede, ne so tante tante, ognuno pensa alla vita poverina, pensando riman qua in questa dollina. Padri e gioventù rapina, che ne rimane sopra questi monti, ognun si duole dice oh che rovina, di quante gioventù che muore al fronte. Guarda i figli del sangue italiano, di quanto sangue sopra questo piano. Agosto, o popolo cristiano, ti racconterò di vero cuore, del tutto vi dirò a mano, combattendo con forza e con ardore, rompendo i primi lini, ogni italiano, non pensando al vita o al genitore. Ad Oberdò arrivammola con fretta, dando l'assalto alla baionetta. Così scriveva un nostro soldato fra le battaglie sul fronte italiano, dando l'assalto alla baionetta. Così morivano i nostri soldati. Blue Radio. Blue Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 22:23, oggi è lunedì 27 agosto 2012. Questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino, ma soprattutto con Maurizio Calzavara, e soprattutto vi sta regalando la musica stupenda di Stefano, insomma. Stefano Ferro Band. Stefano Ferro. Ah, va giusto, bene. Giusto, correggimi. Cioè, Stefano Berber. Ferro, perché praticamente Stefano sì, è il vocalist, quello che scrive i pezzi, però senza la band, vero Stefano, le cose sarebbero un po' diverse. La band è necessaria. Assolutamente necessaria. Tu dicevi giustamente all'inizio, cioè prima, qualche minuto fa, tu componi chitarra e voce, ma la chitarra e voce è bella e positiva, però l'arrangiamento, la forza, più che l'arrangiamento, la forza dei tre musicisti che ti seguono è un'altra cosa. Sì, dico, è necessario non soltanto dal punto di vista naturalmente tecnico, ma anche dal punto di vista umano ed emotivo. Esattamente quello, umano ed emotivo. Io ricordo tantissimi episodi così, che abbiamo condiviso anche in giro per l'Italia, avventure e disavventure che ci sono capitate. Dove sei andato in giro per l'Italia? Ma abbiamo partecipato per 4 volte, vincendo l'edizione del 2007 al festival di Prato Sesia, che è in provincia di Novara. È un festival decisamente interessante e importante. Sì, siamo stati poi un paio di volte in Repubblica di San Marino, siamo stati a Castellina Marittima, che è in Trapisa e Livorno, e diverse volte in Emilia, a Bondeno, a Ferrara, abbiamo suonato al festival delle Mongolfiere. Anzi, approfitto per ringraziare e salutare alcuni musicisti che ci stanno seguendo in streaming da casa, sicuramente Angelo Nacca, l'altro bassista che collabora con me, Mattia Ferroni, Luca Maragnoli, Marco e Massimo Montrasor e tutti, Silvio Grando e tutti gli altri musicisti che nel corso degli anni hanno collaborato contribuendo a marchiare, direi, in maniera indelebile il disco, e che ancora oggi, quando le occasioni e le possibilità lo permettono, imbracciano i loro strumenti e mi accompagnano volentieri. Perché l'importanza di Stefano Ferro Band è che Stefano Ferro Band è una band aperta, assolutamente aperta, libera, cioè aperta ad ogni collaborazione, vero Stefano? Sì, è anche un po' questa impostazione figlia delle necessità, certo, perché certo, naturalmente non avendo noi una produzione alle spalle o un qualcuno che dà una casa discografica, certo, un indirizzo, va anche bene così, cioè va anche bene che riuscire a cogliere quei rari momenti live grazie magari alla collaborazione di qualcuno che può supportare chi magari in quel momento non può o è impegnato in altre avventure musicali. Lo spirito che spesso capita all'estero, al di là dei confini italiani, spesso capita questo coinvolgimento di gruppi, di musicisti, senza nessuna divisione, senza nessuna, possiamo chiamarla in modo un po' cattivo, invidia. Certo, confesso che non sapevo questa cosa, ma mi fa molto piacere. Devo dire che in una recente occasione ci siamo ritrovati un po' a suonare tutti quanti assieme, ed è stato molto bello perché si alternavano i musicisti e non c'era invidia o rivalità o voglia di primeggiare, ma ciascuno ha preso il proprio strumento e l'ha lasciato, proprio letteralmente prestato all'altro in un secondo momento. Ci siamo divertiti veramente molto. Allora, Agostino, è l'ora della domanda classica. Certo. Voi chiedete. Sì, beh, fai te, dai, stavolta fai te la domanda classica. Non c'è niente di chissà che, è solo per capire i vostri gusti musicali. Allora, noi chiediamo sempre, che poi è una domanda che si tramanda dal passato: se vai in un'isola deserta, che dischi ti porteresti? Ti do tre possibilità. Tre possibilità. E una cosa fondamentale in questo giochetto: non si può copiare. Ripeto, è solo una semplice curiosità per capire i vostri gusti. Questo riguarda nei momenti, diciamo, di serenità, cioè senza stress, senza niente. tu ascolti la musica, cosa ti porteresti, insomma, in questo caso? L'isola deserta sta a significare la serenità, insomma, sì, il non pensieri. Ma senz'altro mi porterei il cofanetto con l'opera Omnia di Fabrizio D'André, che è uscito recentemente. Esattamente. Quindi, grazie al quale posso ascoltare anche Massimo Bubula, suo grande collaboratore. Certo. Quindi fanno due autori in un unico cofanetto. Certo. Poi mi porterei tutta la discografia di Pierangelo Bertoli. Ottimo. Ha detto un disco, eh? Tre dischi, non è che puoi portare ha, un e poi ha confluito i tre elementi, elementi. Sono tre bauli questi. I tre elementi, i tre momenti, dai. E poi credo che sarei veramente in grande imbarazzo, in grande indecisione fra gli altri, non saprei chi portare e chi lasciare a casa, e finirei per evitare possibilmente l'isola deserta e poter ascoltare tutti i miei dischi senza doverli limitare, ecco. No, beh, insomma, un terzo disco, dai, cosa ti porteresti? Andrei Bertoli e poi? Ma senz'altro De Gregori. De Gregori. Cosa ti piace di De Gregori? Di De Gregori mi piace quella capacità di sintesi che ha nel descrivere alcune situazioni, l'uso dei versi, l'uso della rima e soprattutto le melodie, il ritmo, la capacità di cambiare. Ecco, questa è una vecchia versione di Rimmel. Io credo di possedere circa una decina di versioni differenti di Rimmel. Lui stesso dice: ora non eseguo più questa canzone con la voce che avevo allora, con gli stessi musicisti e magari neppure più con gli stessi strumenti. Ed è, come ripeto, il grandissimo privilegio della canzone di Gregori, forse più di tutti è riuscito a evidenziare questo aspetto della canzone, che non è un quadro, ma cito proprio le parole sue di De Gregori. Una canzone ha questo grande privilegio, lo si può cambiare, riadattare, può perdere, può guadagnare, dipende. Angelo, adesso vieni al microfono. Sì, i tre dischi anche a te. Nessuno sfugge alla regola ferrea di beh, possiamo dire anche di rock, sì, assolutamente di rock wave, dai. Il bello della diretta si sta in mezzo a sta ponendo con una certa grazia il suo basso. No, non del basso, o del basso, sì, non del basso, assolutamente del basso, però vai Angelo. Eccomi qua. Ecco. Ciao. Allora la domanda è? I tre dischi da portare su un'isola deserta, i tre elementi, i tre amori musicali. Tre amori musicali, flauto magico di Mozart. Perfetto, quindi siamo già ad altissimi livelli. Un trio di Bill Evans. Altro ad altissimi livelli. E The Extremis di Satriani. Ah, è il momento, ci fermiamo, perché Satriani? Adesso voglio sapere il perché. Perché l'anima rock o Made in Japan dei Deep Purple. Ecco, quello non manca mai. Quello non manca mai. Questi tre qua sono I tuoi punti di riferimento. Poi hai citato anche Flauto Magico di Mozart, che era il rockettaro per eccellenza dell'epoca. Sì, però molto raffinato, molto un'opera buffa, un'opera allegra dove non muore stranamente nessuno. È vero. E quindi un'opera completa, proprio bella da sentire, che mette bene, insomma, che fa, come si può dire, che fa molto buon umore, insomma. Non hai citato nessun bassista, però. Come mai? No, perché tutto Gio Satriani non è un bassista, è un cultore dello strumento, vuoi dire. Qualcuno ha detto suona, un po' troppo suona cultore anche il basso. Sì, però non però, a quei insomma, livelli come suona la chitarra. No, beh, ovvio. Ma è musica completa, nel senso che diciamo quando avevo 16 anni ascoltavo Made in Japan, che è del 72. Certo, sì. Quindi sì, io sto parlando del 77-78, ascoltavo Made in Japan e quindi quello è stato il disco rock per eccellenza. Poi è uscito nella maturazione musicale, è uscito il jazz e quindi lì l'amore per Bill Evans è stato, diciamo, il top di quello che ho sentito, senza chiaramente togliere nulla agli altri. E nella maturità, che è abbastanza comune, l'avvicinarsi a Mozart, che è stato sento già un riff molto ben conosciuto. Forse è il riff più conosciuto del mondo, assolutamente. Che sembra qualcuno ha avvicinato questo riff alle note di Beethoven, della quinta di Beethoven. Che sta qualcuno suonando? Che ha avvicinato il riff di... Sentivo una chitarra suonare, com'è che faceva? Questo è un suo pezzo. L'ha scritto lui. Sì, chiaramente sono dei pezzi che per motivi a me sconosciuti entrano nel cuore, nella testa, nel cervello delle persone. Non si può ascoltare Mozart e Smoke on the Water chiaramente nello stesso orario diurno o notturno, però sono pezzi che la mia sensibilità in alcune ore del giorno sente proprio vicina. Bill Evans è il massimo per quanto riguarda la concentrazione, insomma, ecco, la somma di una musica di grandissima concentrazione. Invece Mozart è una sorpresa totale, nel senso che qualsiasi pezzo si possa ascoltare di Mozart in un qualsiasi momento della giornata, si può andare da un rondò alla turca, che è molto vivace, a pezzi assolutamente come il concerti per pianoforte orchestra, e quindi alle opere, diciamo le più famose, il Flauto Magico, le Nozze di Figaro, il Così fan tutte, il Don Giovanni che ho visto quest'anno in Arena, che è stato molto bello, per cui la passione per la musica ti porta ad avere una visione a 360 gradi, se sei un appassionato di musica, di quello che è, diciamo, la produzione umana. Secondo me la somma c'è in Mozart, anche se Mozart non ha vissuto il periodo elettrico, non ha vissuto il periodo rock, però ascoltando Mozart veramente lì dentro c'è veramente tutto quello che poi è venuto dal punto dopo, dal 1791 che non c'era più fino ad oggi. Adesso sentiamo il nostro drama, il nostro Pietro, adesso ti avvicini al microfono, hai una bella maglietta, sai, ricorda quella maglietta, la ricorda un disco Fly Like an Eagle di Steve Miller Band, e che non conosci, ma te sai, lo dico, non io lo sapevo. E c'era quel cavallo là che è nella maglietta di Pietro, ricorda proprio Fly Like an Eagle. Steve Miller è un grandissimo musicista. Questa maglietta di un gruppo death metal, ecco, vedi caso, olandese, che io adoro. Non c'entra niente con Steve Miller, ma va bene lo stesso. Ma va bene. Vabbè, la allora, musica è senza confini anche. Andiamo alla domanda, allora. Penso che porterei un CD dell'Overture 1812 di Tchaikovsky. Ah, andiamo tutti sul classico. Perché, stasera. Sì, beh, a parte che appunto io, avendo fatto il conservatorio, ho studiato tutti gli strumenti a percussione dell'orchestra classica, quindi un po' l'influenza arriva da lì. Ma secondo me Tchaikovsky in quel pezzo, cioè, è andato oltre l'epoca in cui viveva, cioè, è come se fosse stato The Dark Side of the Moon della sua epoca, un brano, una sinfonia assolutamente rivoluzionaria, visionaria e potente, raffinata, malinconica, tutto lì dentro. Poi porterei sicuramente un album dei Queen. Ah, quale? Che Agostino vuole saperlo, so. Agostino vuole saperlo. Devi darmi un po' più di tempo per pensarci, però un Greatest Hits. Ce ne hanno fatti più di uno, però. Lo so, però penso porterei A Night at, bravo, sì, sicuramente. A Night at the Opera e vabbè, dove c'è Bohemian Rhapsody, dove c'è la summa, secondo me, della loro genialità. Ecco, Agostino sta cercando, immediatamente la sta cercando. E poi, come terzo CD, album, diciamo, penso che porterei Graced di Jeff Buckley. Ah, che bravo che sei stato. Sai quanti... Non è da tanto che conosco Jeff Buckley, perché saranno 4-5 anni. Però è stato amore proprio al primo ascolto, se, la pelle d'oca. Se facciamo una classifica, vero Agostino, di tutti i brani, i pezzi che la gente, che gli artisti che vengono qua citano, Jeff Buckley, Queen è un buona posizione, ma Jeff Buckley supera altamente, che tantissima gente ha citato Jeff Buckley, Grace, che è l'unico, purtroppo, disco che veramente ha fatto, altri sono dei recuperi. È un disco inimitabile. Tu prima con te, Stefano, abbiamo parlato del padre, Tim Buckley. Aveva un altro modo di fare, però era lo stesso DNA, ragazzi, e vuol dire molto. Esatto. E non sarà un caso che tanti lo citano. E non sarà un caso. Tocca a te, caro Luigi, vai. Allora, premetto che tre dischi sono veramente pochi. Lo so, è una... è, lo sto. È impossibile, cioè, non ridurre. Però, prima di tutti, il disco su cui ho studiato per tanti anni, intestardendomi, solo su quel disco, è un doppio live dei Dire Straits, che è Alchemy. Ah, Alchemy, sì. Che è nell'83. Come mai ti sei intestardito, pardon? Perché mi piaceva talmente tanto, io lo ascoltavo ancora fraseggio di McNuffler. Ancora prima di iniziare a suonare la chitarra, ho questo ricordo di me bambino a 5 anni, ascoltavo perché avevo le sorelle... un po' più grandi di te. Le ho ancora, certo. Più grandi. E quindi la musica che passava in quegli anni, nell'83, 83, 84 erano Dire Straits, quindi Pink Floyd, gli Europe. Anche gli Europe? Sì, c'era a casa mia, c'era quella musica. Hanno fatto solo un pezzo gli Europe? Gli Europe hanno fatto un disco, secondo me, maledetto, è bellissimo quello, poi sono scomparsi, non si capisce. Hanno fatto sempre solo, si ricorda solo per un pezzo. È proprio la The Final Countdown. Sì, è sempre quello. Sono tutti lì i pezzi belli, poi sono spariti, non si sa. No, dai, adesso io non conosco molto la storia degli Europe, però... comunque, questo doppio live dei Dire Straits che conosco veramente a menadito, porterei, insomma, ne vengono in mente tanti altri, soprattutto di autori, perché anche la mia no, Stefano Ferro non lo porta pazienza, tre dischi, e... però mi porterei una chitarra, ma risuono le canzoni di Stefano Ferro. Ecco, questo è già positivo. Me ne vengono in mente tanti adesso, di rotare le scelte è difficile, però anch'io come Stefano starei su De Gregori, il bandito e il campione, che mi non piace. Si può copiare? Ah, non si può copiare, allora vado subito con la terza scelta che volevo. La terza scelta, devo ripensare alla seconda. No, il terzo disco sarebbe una raccolta più possibile completa di Ennio Morricone. Ah, come mai hai scelto Ennio Morricone? Beh, Ennio Morricone è, secondo me, il genio proprio della musica moderna. È, adesso non vorrei far paragoni inappropriati, anche perché comunque, per quanto poco approfondita, anch'io ho una cultura classica abbastanza appassionata, insomma. Però Morricone è quello che, secondo me, ha saputo... vivere ai giorni nostri quello che era l'impegno di un maestro musicista tanti anni prima. Non esisteva la musica moderna quando, ai tempi di Mozart o Vivaldi o che altro, però c'erano questi grandi geni. Morricone, nel marasma del Novecento, secondo me è un genio di quel tipo, io la vedo così quantomeno. Poi semplicemente non mi piace neanche tanto stare a pensare così. Io ascolto Morricone e dico, cavolo, non cambieresti una nota. Quando si guarda un film, comunque le musiche, anche senza guardare il film, fanno capire dove ci si trova. Vabbè, questo è quello che... A proposito di Morricone, parlavamo di Micocci all'inizio di trasmissione, quasi. Morricone all'inizio di carriera faceva l'arrangiatore di tutti gli artisti della RCA. Ma infatti, cioè, si capisce che tutti gli artisti della RCA sa dove posizionare gli strumenti e sa come esattamente il famoso dei Mal de Primitis è stato arrangiato da Morricone, scritto da Luigi Tenco, quindi insomma tutti gli A erano gli artisti, e Morricone era giovanissimo, cioè giovane all'epoca, era un maestro giovane e arrangiava i pezzi della RCA, così quindi era. Mi porto due dischi io alla fine, terzo non saprei. Puoi scegliere. Un doppio live degli Eagles, Farewell Tour, che è del 2000. Ecco, hai pigiato sull'acceleratore per Agostino. Vedo che abbiamo comuni. Farewell Tour del 2004, che in verità non è stato un tour di addio, ma dopo sono ripartiti. Ed è molto bello. Si parlava prima della musica orecchiabile. Secondo me loro sono proprio il simbolo della musica. Della melodia. Sì, della musica semplice, della melodia semplice, ma che gira molto bene, oltre che essere arrangiata molto bene, perché loro sono veramente dei maestri, bravi. Anche dal punto di vista corale, sono veramente, pertanto, però vabbè, se adesso mi vengono in mente tutti i concerti che sono stato a vedere e dico vabbè, li hai visti gli Eagles? Sì, in arena. Cosa ti sono sembrati quando li hai visti in quel momento? Io tra l'altro, io quando vado a vedere un concerto generalmente sto fermo immobile e guardo e ascolto, perché non ho mai capito, un po' come chi va allo stadio continua a fare il tifo, alla fine finisce per non guardare la partita. Io cioè, faccio fatica a cantare, faccio fatica proprio, mi cosa ha messo? Niente. Peraltro cantata dall'ultimo entrato, che è Timothy, bassista, Timothy è l'ultimo diciamo della formazione, Timothy, che è entrato. Smith. E questa è la versione originale, questa è datata, questa canzone qua. Sì, ma era già entrato, penso, nell'80. Sì, era già entrato. Era già arrivato. Sì, per la prima formazione se n'è andato via solamente il chitarrista di ma ne di ha cambiato. Sì, ne ha cambiati qualcuno. Poi c'era anche il chitarrista che suonava anche il banjo, sì. Era riccio in particolare. Esatto. Comunque, bravi, insomma, loro. Sono bravi, beh, chiaramente sono bravi, sono bravissimi. E soprattutto gente che si capisce che gli piace suonare, ha fatto 2 ore e 3 quarti di concerto, insomma, non è che vengono lì. Fanno il concerto. Questo l'hanno fatto? Sì, nel 2005, vi ricordo. E niente, insomma, concerti così andrebbero sempre. Sono pienamente d'accordo. Andrebbero sempre visti. Bene, 22:43, abbiamo ancora un quarto d'ora prima di salutarci. Abbiamo tempo, però, Stefano mi ha già detto: abbiamo 2 pezzi dal vivo. Sicuramente li facciamo questi 2 pezzi dal vivo, Stefano. A 3 pezzi, benissimo, facciamo 3 pezzi dal vivo. Cosa cominciamo per dare questo finale meraviglioso live, assolutamente. Il pezzo si intitola Un po' così, è il titolo che in apparenza vuol dire poco. È un pezzo che ho scritto pensando al senso di confusione che abbiamo provato, almeno in molti, quando abbiamo sentito parlare all'inizio della crisi economica, e si sentono tante persone in grado di dare delle ricette sicure o di interpretare i fatti con dovizia di particolari. Io non ne sono capace, mi limito ad osservare e purtroppo alle volte anche a subire certe situazioni, e non essendo ancora riuscito a darmi una spiegazione, ho scritto una canzone che parla appunto di questo senso dell'indefinito, dell'incertezza, un po' così. Promesse vane stanno lì, piene di vuota ideologia. Noi ce ne stiamo un po' così, e pace e male così sia. Noi ce ne stiamo alla finestra, però ancora solo per un po'. C'è chi oramai non ne può più, c'è chi si ingegna come può, c'è chi prega e guarda in su, chi dice sì o soltanto no, c'è chi le corna le fa il diavolo, ma ancora solo per un po'. Cambia le parole al vento, cambiano i contratti a tempo, restano speranze vane, chi vivrà ci dirà che bello affare questo qua. Chi dice questo lo so io, chi dice questo non lo sai, chi dice che ci crede a Dio, chi vive solo in mezzo ai guai, chi dice questo meno quello, però ancora solo per un po'. Chi sopravvive appeso a un filo, c'è chi risparmia sopra il pane, e è chi ti lega come un cane e che viene a casa tua per dirti solo devi fare così. Sì, dai, la soluzione cola qui. Volano le parole al vento, truffano in cravatta grigia, vendono magie e speranze, chi vivrà comprerà. Oddio, che affare questo qua. Tremano di più, le voglie le hai già messe via, ci consoliamo alla TV, e pace male così sia, c'è chi ti dice devi fare così, lo sai, la soluzione è questa qui, e avanti, avanti ancora un po', e poi più avanti non si va. E ce ne stiamo un po' così, ognuno pensa al proprio sì. Scendiamo in piazza no stasera, però forse domani o forse no. Assuefatti alla prigione, senza idea di ribellione, ci affidiamo a lotterie e chi vivrà comprerà. Bella fare questo qua. Un pezzo molto duro musicalmente, secondo me, questo qua, senza mezzi termini, abbastanza bluesato, con molto blues, che il blues era predominava stavolta, secondo me. Non so, Stefano, cosa dici? Sì, a me piace scegliere il blues quando l'argomento di cui intendo così parlare è un argomento scuro, un argomento che ha delle ombre, non è un argomento solare. No, assolutamente. Ecco, e, come un vestito, se bisogna andare a una festa magari ci si mette in un certo modo, se invece la situazione è più disimpegnata si sceglie qualche cosa di più casuale o... Ecco, e anche per la canzone, ecco, questa è una canzone che mette in fila alcune frasi indefinite, un po' così, in fondo non vuol dire niente, è una risposta quasi banale, scontata, è la risposta di chi non sa più che cosa dire quando gli si chiede come va, un po' così, e che cosa significa? Può significare molte cose oppure può anche non significare nulla. La risposta, Dylan disse, la risposta la troviamo nel vento, nel famoso Blowing in the Wind. Cantautore, è ancora valido il discorso del cantautore adesso secondo te? È ancora una figura importante oppure è superata da certe cose, anche dai stessi video, la stessa televisione che ha distrutto secondo me la musica, da determinati punti di vista? Ma rischiamo di aprire una diatriba che ci non finisce più. Ma volutamente perché lontano. Dobbiamo esplorare anche su questo. Ma cantautore, intanto il termine tecnico è un termine abbastanza nuovo. Creato da Bindi un po' di tempo fa. Stava appunto a significare colui che oltre a scrivere i testi e la musica cantava. Esatto. Ecco, e quindi... era una figura che si connaturava di questo duplice aspetto, era la persona che non solo appunto scriveva la musica e il testo, ma addirittura che interpretava quello che lui stesso scriveva. Alcune grandissime canzoni sono state invece portate al successo da veri e propri interpreti. E alle volte il pubblico così erroneamente confonde il significato della canzone con l'interprete che la canta, e certo. Questo è uno degli effetti collaterali, una delle magie della canzone, quando magari dietro a quelle parole non c'è quell'interprete che la canta e che magari la porta al successo, ma c'è il paroliere. alcune canzoni addirittura sono scritte a quattro mani, altre addirittura a più di quattro mani. Anche la musica può essere scritta assieme a qualcun altro. Ricordo tantissime canzoni, per esempio una su tutte, Azzurro. Sì. Quando citiamo Azzurro, noi associamo la canzone Vediamo Celentano. Non è vero. In realtà Azzurro l'ha scritta Paolo Conte. Pallavicini Conte, esattamente. Ecco. Quindi è un'altra cosa. Pallavicini Conte, esattamente. Pallavicini, quindi due gli autori. Ecco. E quindi, ecco, il cantautore secondo me è ancora una figura che può essere. Ecco, qua. Questa è la versione, proprio di Paolo Conte. Sì. È stata la sua versione. Proprio. Cantautore è una figura che forse può ancora dire qualche cosa. Il cantautore è un po' come tutti gli artisti, secondo me, sono un po' degli anticorpi che la società a volte si crea contro il potere. Secondo me, ecco, il sogno di fare il cantautore e di diventarlo anche in maniera professionale nasconde un po' una mia paura inconfessata, che vorrei confessare questa sera per la prima volta. Quella paura di non essere all'altezza di un mondo basato sul chi vende di più è il più bravo e del chi riesce ad arrivare più in alto si merita questa cosa, che va sempre poi a discapito di qualcun altro. Per chi vende di più c'è sempre quello che deve chiudere, per chi merita di più c'è sempre chi per varie circostanze questa cosa non riesce ad ottenerla. Io credo che possa esserci da qualche parte un altro modo di vivere fuori da queste logiche. È un po' come fanno gli scrittori e gli autori di canzoni, che regalano emozioni e alle volte anche dividono il pubblico, perché non sempre producono dei consensi, e suscitando emozioni, riuscendo magari a commuovere, a far pensare, a far riflettere, senza comandare nessuno e senza essere comandati da nessuno. E quindi arriviamo all'artista non professionista. All'artista arriviamo sempre là. Sì, arriviamo là, all'artista magari non professionista, ma che riesce in maniera assolutamente professionale a dare emozioni. A dare emozioni, sì. Poi magari il professionismo può alle volte inquinare, alle volte no, questo dipende un po' dalla sensibilità del produttore o della figura che l'ideale sarebbe riuscire a produrre da soli quello che si ha voglia di scrivere o di mettere anche. C'è qualcuno che ha tentato di farlo, si chiama Prince o si chiamano Radiohead, però i maligni hanno detto sì, ma tu ti chiami Prince e ti chiami Radiohead, partiamo sempre da là, cioè, possono farlo perché hanno già creato tantissimo, ma un giovane emergente che si autoproduce è un po' più difficile, è un po' più rischioso. Certo che è difficile, è un rischio. È un rischio, è un sogno, un rischio che deve essere purtroppo alle volte meramente calcolato. Anche una Stefano Ferro Band è un rischio autoproduce. Assolutamente sì, io devo sempre fare purtroppo, ahimè, i conti con quello che posso fare, che possiamo fare, che mi posso permettere oppure no. Ecco, il cantautore secondo me è il simbolo della, come così come un artista, uno scrittore, un pittore, è un po' la metafora della libertà, è colui che riesce a vivere fuori dalla logica del chi vende di più o dal chi arriva per primo da una parte, perché per chi vende di più c'è sempre qualcuno che ne trae svantaggio. Io vorrei riuscire ad essere al di sopra di questo, a vivere, ma non tanto di sopra, ma da un'altra parte, veramente, cioè riuscire a vivere di quello che desidero fare senza dovermi scontrare per forza con queste logiche, senza dover vendere per forza qualcosa a qualcuno e senza dover danneggiare per forza qualcuno. Stefano, come nascono le tue canzoni? Bella domanda. Cioè i testi parlo. Oppure te la faccio anche in maniera diversa: nasce prima la musica o il testo? Ma la domanda è classica. Per quanto riguarda me, nasce prima il testo, ma la risposta non è così banale come alle volte si può pensare, perché dietro a chi risponde nasce prima il testo, dietro a chi risponde nasce prima la musica, si nascondono degli universi completamente differenti. Ecco, per esempio, il grandissimo Paolo Conte che abbiamo ascoltato poco fa scrive assolutamente prima la musica. il titolo anche di un libro recente apparso su di lui, e lui non rinuncerebbe ad una virgola o ad una parola in funzione della musica, ecco, e poi ha dimostrato anche di essere un grande paroliere. Io parto sempre dal testo perché il testo in un qualche modo mi guida alla melodia. Io scrivo un testo con degli obblighi interni, con la rima, il metro naturalmente, che mi è un testo musicabile, e poi il testo stesso in un qualche modo mi suggerisce. Ma sono esperienze tue personali, private ovviamente, insomma, o le canzoni nascono da, che ne so, da una lettura di un libro? Sì, le canzoni non sono, per quanto riguarda me, non sono quasi mai frutto di esperienze personali vissute direttamente, ma sono semmai il filtro che applico alla realtà, un po' come un regista di un film che cerca di staccarsi dalla vita per fotografarla meglio. Ecco, la canzone sui tre ladri non, ad esempio, non riflette nulla di personale. Ho cercato di mettere assieme questi tre romantici mascalzoni che rubano tutto ma non rubano niente, perché rubano cose che non si possono rubare, poi vengono messi in galera, rubano le sbarre, vengono uccisi e in qualche maniera come angeli escono dal cielo per poi quasi resuscitare sul binario di una stazione, ecco, certo. E per esempio questa canzone che abbiamo appena eseguita, un po' così, ecco, dopo aver ascoltato decine di trasmissioni, aver letto molti giornali, sentito molti pareri, commenti, è nata questa canzone che mette in fila una serie di frasi indefinite, ma anche alcune piuttosto cattive, piuttosto ciniche, che vanno contro un po' a quella logica, no, del promotore finanziario, no, che viene a casa vostra per dirvi fai così, fammi una firmetta, no, qui, questa è la soluzione. Non è mai un promotore finanziario, non lo sarà mai, assolutamente, se no non è un cantautore. Cantautore, anzi, semmai è uno che spende le proprie finanze per autoprodursi, così come faccio così io. Dovrebbe essere, dopo chiaramente le cose sono cambiate, però all'inizio l'idea era proprio questa, sì. è un busker, un cantautore, uno che dà la musica, fa sentire la musica propria e la fa sentire agli altri suonando in giro, questo è il cantautore. Lo chansonnier dell'epoca era così, è sempre stato così, il trovatore era così. Se poi chiaramente la fortuna, il destino e non so che cos'altro ci potrà portare ad incontrare un futuro con una maggiore professionalizzazione dentro a quello che facciamo, ben venga. Certo, ben venga, io me lo auguro. Siamo arrivati alle 23. Sì, adesso facciamo gli ultimi due pezzi. Il primo che avete deciso di fare dal vivo. Il primo si intitola Una strada davanti. Ecco, questo per rispondere appunto per completare la domanda che poneva Agostino prima, è un brano che ho scritto proprio dopo un infortunio che mi ha costretto, dopo una lunga convalescenza che mi ha costretto a rinunciare a molta attività live, ecco, ho perso una stagione intera, e così, pensando alle volte all'insensatezza che ci circonda quando noi pensiamo, ci auguriamo e speriamo di avere una strada davanti, e questa strada che noi vediamo davanti a noi ci viene bloccata da un macigno, da un qualche cosa che ci impedisce di proseguire, e di fronte al quale noi non riusciamo a trovare un significato. È nata questa canzone, Una strada avanti, quasi un'illusione che noi abbiamo, sempre ammesso che una strada poi ci debba essere, non si sa. Ok. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. ciascuno davanti a sé, senza né meta né ombre, ciascuno dentro perché, se circostanza o destino, o chissà cosa, chissà, l'avversità o la fortuna, nessuno mai lo saprà. Una strada davanti, ciascuno dietro di sé, e come figli del tempo vagabondiamo qua giù. Chi scenderà da quel treno, chi forse continuerà, dovunque arrivi o si fermi, avanti sempre si va. Davanti, ciascuno porta con sé, senza sapere o vedere, davanti che cosa c'è, senza distinguere in fondo, se il fondo è bianco o è blu, ciascuno dentro una strada, è quello che dici tu. Hey! Nessuno ha strade davanti, eppure continuerà, dovunque arrivi o si fermi, avanti sempre, si va! Fammi un'altra volta il finale di batteria, grazie, fai un'altra volta. Perché rock and roll condito dal blues non ha mai fatto male a nessuno, secondo me. Quindi questo era un chiaro esempio di rock and roll condito dal blues. Pezzo molto bello, molto profondo. Anche questo l'hai declamato, possiamo dire, più degli altri, a mio parere. Cosa dici? Ma sì, ci sono canzoni che quasi inconsapevolmente iniettano dentro una certa forza, forse perché le parole le sento ancora vive, presenti, anche se devo dire la verità, una canzone che io non avrei mai voluto scrivere, ma avrei voluto invece continuare a fare le serate piuttosto che annullare. Eh beh, certo, invece questo è stato chiaro. Un po' un riflesso quasi negativo di un momento. Se la canzone è il riflesso positivo di un momento negativo, non lo so, lo dirà il futuro. Certo. Agostino, diciamo le solite questioni istituzionali adesso. Sì, no, io, nel senso che dove si può acquistare il vostro disco, dove si può trovare qualche contatto per chi volesse chiamarvi e mettersi, insomma, in contatto appunto con voi, i prossimi concerti, insomma, tutti quelli che sono i vostri dati. Insomma. Mi piacerebbe molto dirvi che l'album si trova nei migliori negozi di dischi, ma per le ragioni che ho spiegato prima, l'album non si può trovare nei migliori negozi di dischi e anche in quelli un po' meno migliori di quelli blasonati. Chi desidera il disco non deve fare altro che contattarmi e troverò il modo di farglielo avere, questo sicuramente. Ma anche nei tuoi concerti magari. Sì, sicuramente nei live. Il prossimo sarà il 29 settembre, sarà un bel giorno, d'improvviso lei, Sì, non l'ho previsto lei. È un'apertura che faremo in occasione di una festa dell'Avis, così un'occasione che abbiamo per portare il nostro live, tra l'altro nel mio paese di nascita, San Michele Extra, in provincia di Verona. E mi potete contattare attraverso il mio sito, che è www.stefanoferro.org, oppure semplicemente digitando Stefano Ferro da un qualsiasi motore di ricerca. Siamo in più di uno, ma quello che ha a che fare con la musica e con le canzoni sono io. Per completezza, se volete, potete digitare Stefano Ferro and Band e trovate tutti i contatti su vari siti e piattaforme, mi potete raggiungere molto, molto facilmente. Benissimo. E i prossimi concerti invece? Sì, ecco, come dicevo prima, il prossimo sarà il 29 settembre, sì, in occasione dell'apertura. Sì, ma oltre a quello, invece. Mi piacerebbe molto mettere in fila tre o quattro date, ma ancora ricordo, per chi fosse interessato. Facciamo un appello, dai. Tenete monitorato il sito e tutte le date saranno puntualmente e con largo anticipo comunicate. Se c'è qualcuno in ascolto che invece desidera metterci nelle condizioni di lavorare e metterci alla prova, magari in qualche piccolo teatro di provincia con la nebbia o a qualche festival, noi siamo molto ma molto disponibili. Sì. Va bene, noi ci salutiamo, Maurizio. Certo, abbiamo finito questa cavalcata elettrica, possiamo dire elettrica. Io cito il tuo un certo personaggio che abita a Verona. Sì, Massimo Pugula, il cavaliere elettrico per antonomasia. Allora noi vi salutiamo con l'ultimo brano. È un brano country pieno di ossimori. Bene. Si intitola Dormi piano. Ok. Maurizio, noi ci rivediamo mercoledì. Domani sera avremo Flavio Bilato e i Tactu. Quindi ritorna tutta la programmazione. Tutta la programmazione. È un po' sfasata questa settimana con il sottoscritto, agosto, perché devo andare via. Ma agosto è finito, quindi settembre riprende tutto. Poi ci sono i Tactus Rosa, che sono una cover band tra i Pink Floyd e i Beatles. Interessante. E mercoledì ci sarà nuovamente Agostino con Cantautore. Sempre un cantautorato, a proposito di Stefano, di cantautorato. Bisogna sempre tirare fuori le proprie volontà musicali, le proprie voglie musicali. E noi a Blu Radio Veneto o a Rockway cerchiamo di far questo. Grazie a tutti. Allora grazie a Maurizio, Agostino, a tutto lo staff di Blu Radio Veneto, a tutti gli ascoltatori. Da Stefano Ferro, Luigi Cerpelloni, Angelo Bonato e Piero Micheletti, una buonanotte e un arrivederci, spero, a presto su queste frequenze. E allora noi diamo la buonanotte. Sì, certo. Ringraziamo anche Gil, che ormai fa parte della redazione. Ormai è qui con noi. Esattamente. E della famiglia anche lui, si è inserito molto bene. Prossimamente poi avremo modo anche di parlare un po' di più di lui. E buon proseguimento comunque all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto, che continuano appunto con l'ultima canzone di Stefano, ma poi ci sarà il notturno, ci sarà la programmazione consueta della notte. Buonanotte a tutti da Agostino e da Maurizio Cassavara, indubbiamente. Bye bye, grazie a tutti e buonanotte. Ciao. Dormi ancora, finché suono, lascia stare, io perché ho attrapito l'anima di una bimba, mai bambina, di una donna appena nata, di un diamante fragile, è come un foglio umile, dormi ancora qui con me. scuri, occhi grandi, occhi da dimenticare. Ma tu dormi, dormi bella, finché suona un po' di vento, finché il tempo corre piano per ti veglia sul tuo amor. Ehi, hey, tu dimmi ancora, senza voce, che vuoi pace, è qualcuno con te, sogna adesso un altro posto per arrampicarti per sempre, per toccare quasi il cielo come quando eri bambina. Ma tu dormi, dormi bella, mia fanciulla di 40 anni, e dormi piano e dormi bene finché suona e canto assieme.